Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 14 gennaio, la seconda edizione di Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchesi. La prima traccia di Italia in controluce riguarda il mondo della scuola. Ogni venerdì da oggi alle 13.30 Piera Ceci racconta per voi le tante storie dietro ai banchi. Scuola in controluce. Il dover ricorrere per vedere rispettato un diritto costituzionale, dover ricorrere a un giudice vuol dire tagliare le gambe a tutte quelle famiglie che non hanno né strumenti, né cultura, né condizioni tali da poter sostenere un iter giudiziario. A parlare così è Maria Spallino. Suo figlio disabile frequenta una scuola primaria milanese. Per vedersi riconoscere il diritto all'istruzione, uno dei più elementari diritti dei bambini, sua madre è dovuta ricorrere al tribunale. Mio figlio frequenta la scuola primaria, quindi la ex scuola elementare, una seconda, ha una sindrome di Down, ha una disabilità grave, quindi ha diritto alla copertura totale. Nella sua diagnosi funzionale c'è scritto che lui, in base alla sua situazione, deve avere un rapporto individuale uno a uno. Viene interpretato in modo diverso, uno a uno per noi vuol dire che ogni ora frequentata del bambino deve vedere la presenza dell'insegnante di sostegno. Per la scuola spesso questo uno a uno viene considerato una cattedra di un insegnante che nella scuola primaria corrisponde a 22 più 2 ore. Se il bambino, come nel mio caso, frequenta una scuola a tempo pieno, il rapporto già diventa 1 a 2, perché 40 ore di frequenza non corrispondono al 22. Il figlio di Maria Spallino l'anno scorso poteva comunque contare su 18 ore di sostegno. Poi quest'anno la sorpresa. Sono infatti state ridotte ad 11, con gravi ricadute sulla sua resa scolastica e sulla sua capacità di socializzazione con i compagni. Il problema è che mio figlio ad oggi non è ancora in grado di lavorare in autonomia, tranquillo al banco, ed eseguire dei compiti. Quindi deve per forza essere monitorato, seguito, stimolato, ha una capacità di attenzione molto bassa, quindi ha bisogno di essere veramente affiancato da un insegnante. Inoltre mio figlio è un bambino che ha un comportamento assolutamente adeguato, però dovendo fare un programma molto diverso da quello dei suoi compagni, si ritrova in una classe con dei bambini che fanno un programma, lui ne dovrebbe seguirne un altro, a volte da solo al banco, in un angolo per forza, perché per evitare che i bambini si disturbino a vicenda. La scuola, per come è fatta oggi, con le risorse che ci sono in termini di persone, in termini di strumenti, sicuramente non è assolutamente in condizioni di neanche preparare un ambiente adeguato per i bambini che devono lavorare sulle proprie autonomie, sulla loro propria capacità di stare al mondo insieme agli altri. Il figlio di Maria ha dunque bisogno di un aiuto continuo, eppure quest'anno si è visto ridurre le ore di sostegno. Stessa sorte è capitata ad altre famiglie. Francesco, 15 anni, tetraplegico dalla nascita, ha visto ridurre le ore di sostegno da 18 a 9. La mamma doveva andare lei stessa a scuola per portarlo in bagno. Poi in 17 hanno deciso che non era giusto stare zitti e sono ricorsi al giudice che ha dato loro ragione. Gli studenti disabili e le loro famiglie, ha stabilito il Tribunale di Milano, hanno diritto a vedersi ripristinate le stesse ore dell'anno scorso. Il giudice ha infatti accertato la natura discriminatoria della riduzione delle ore di sostegno. Uno dei legali delle famiglie, Livio Neri. Se si toglie il sostegno scolastico, l'alunno disabile è messo in una condizione di svantaggio e quindi discriminato. Questa era un po' la tesi che è stata accolta dal giudice. L'unica difesa del Ministero fino a questo punto, e anche poi nella causa, era stata quella di dire non ci sono soldi. Quindi la difesa non è stata quella di dire abbiamo dato quello che è giusto dare ai bambini disabili, abbiamo dato quello che con i soldi che avevamo a disposizione era possibile fare. Non si possono violare i diritti fondamentali della persona neanche, e questo dice la Corte Costituzionale, per esigenze di bilancio. Ma quale discriminazione, quali esigenze di bilancio? Per l'Ufficio Scolastico Regionale questa sentenza rischia di avere effetti controproducenti per gli stessi studenti disabili. Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Colosio. Stressare la questione soltanto sull'insegnante di sostegno vuol dire sostanzialmente che l'alunno disabile è diverso totalmente dagli altri. In realtà la legge sull'integrazione ha previsto che l'alunno disabile sia integrato nella scuola, cioè prima di tutto ha gli insegnanti di tutti i suoi compagni, ha l'ambiente scolastico. Allora, se io dico ho bisogno di avere l'insegnante perché lo tenga in qualche modo custodito, accompagnato, rischiamo di dire che l'alunno disabile se ne sta in classe col suo insegnante, ma separato dal resto dell'attività. O addirittura sta fuori dalla classe, come in alcuni casi succede. Io ho parlato poco fa, per esempio, con la mamma di un bambino down. Mi diceva che l'anno scorso avevano 18 ore di sostegno, quest'anno 11, e per le altre ore lo vanno a prendere, lo portano a casa perché il ragazzino non è in grado di stare in classe con gli altri bambini. Quindi vuol dire che dobbiamo ristituire di nuovo le scuole speciali? Il paradosso sul quale c'è la resistenza è che tutto questo porterà a riistituire le scuole speciali, cioè l'alunno disabile non riesce a stare in classe. Amara, molto amara la conclusione del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardo. Ma ora voltiamo pagina, torniamo a parlare della protesta del mondo dell'università. Protesta che si è arenata con l'approvazione in Parlamento della riforma Gelmini. Poi è arrivata la pausa di Natale e tutto si è fermato. Dunque tutto finito? Cominciamo oggi un viaggio nelle università per capire cosa ci aspetta. E cominciamo da Torino. Qui i ricercatori sono stati i primi a salire sui tetti. C'è stata una decina di giorni anche Bruno Maida. Ma io direi che la protesta e la proposta continuano. Nel senso, tanto non abbiamo ammainato nessuna bandiera perché la legge è legge dello Stato e quindi va rispettata, ma nello stesso tempo va contestata. Però è ovvio che nello stesso tempo cambia in parte il contesto. C'è un contesto generale nel quale si scrive la legge, un contesto nazionale, e cioè di riforme calate dall'alto in cui non si ascolta ciò che dal basso viene. E dall'altra parte però, appunto, proprio perché c'è una legge, noi cercheremo di agire nell'ambito della revisione, della ridefinizione delle regole della nuova università. Nello specifico, per quanto riguarda l'Università di Torino, perché la legge che avete contestato è così dannosa? A Torino, che fino a oggi l'EDISU, cioè l'ente per il diritto allo studio, aveva garantito con la sua virtuosità le borse di studio a tutti coloro che ne avevano diritto, oggi è in una situazione per cui fra qualche mese non avrà più un euro per le borse di studio. Anche gli studenti torinesi, dopo un momento di stallo, stanno per riorganizzarsi. Chiara Basile, dell'Unione degli Studenti. Solo quiete dopo la tempesta? No, quiete dopo la tempesta no, perché non ci si sente di aver terminato di essere in burrasca, quindi adesso c'è anche bisogno di ritornare su larga scala per capire che tipo di azioni intraprendere. Vi sentite sconfitti? No, perché se non ci si sente rappresentati da questo governo in realtà non ci si può sentire sconfitti. Comunque siete rimasti un po' delusi dal fatto che una mobilitazione di questo genere non si aveva da anni. Avete fatto di tutto, manifestazioni, siete saliti sui tetti, proteste eccetera, però di fatto la riforma è passata. La protesta non è riuscita e non ha potuto, nel senso che non ha avuto interlocutori se non il Presidente della Repubblica quando ha accettato di incontrare gli studenti, non ha avuto interlocutori politici. Quindi insisterete nel cercare ulteriori interlocutori politici a questo punto? Sì. Sempre all'interno però di una dialettica civile, sicuramente. Quello assolutamente il presupposto per qualsiasi cosa. Italia in controluce. Diventare uomo, arrivano a teatro le storie sorprendenti raccolte dalla giornalista milanese Livia Grossi. Le ha scoperte lei in Albania, le mette in scena in forma di reading l'autrice con Lucia Vasini ed Emanuela Villagrossi fino al 16 gennaio al Teatro della Cooperativa di Milano. Livia Grossi al microfono di Marta Cagnola. Si parla di donne che hanno deciso di diventare uomini, e non è un cambio di sesso ma è un abito sociale, per riottenere diritti ereditari e dignità. Allora, cosa succede? Secondo l'antica legge del Canun, un codice d'onore che regola le faide al di sopra delle montagne di Scutari, si risale al 1400, la possibilità di avere diritti ereditari per donne che non hanno più uomini in famiglia, donne vergini, quindi non sposate, sottolineo, che non hanno più uomini in famiglia, ovvero padri e fratelli uccisi dalla guerra o dalla faida, le possibilità di ottenere i propri diritti ereditari sono due: o diventi una suora o diventi un uomo. Cosa vuol dire diventare un uomo? Vuol dire tagliarsi i capelli, vestirsi da uomo, pensare da uomo, comportarsi da uomo e di conseguenza vedere riconosciuta la propria identità dalla comunità maschile, che in quel caso non solo ti restituisce i diritti, quindi la tua verginità scambiata per diritti, no? Questo è il fatto, ma anche la possibilità di vendicare i torti subiti, ovvero donna dà addirittura una pallottola, se desidera vendicarsi della morte dei familiari, a un uomo che si incarica di andare a risolvere, uccidendo chi di dovere. La famiglia dell'ucciso doveva invitare al banchetto funebre l'assassino e attendere la decisione del consiglio riguardo alla tregua. Sembrerebbe una leggenda non avessi incontrato tu davvero queste donne. Io sono andata a intervistare una di queste donne, la prima che ha fatto questa scelta, una donna, la prima che ha fatto la sua scelta nella sua regione, una donna che ha 28 anni, ha deciso di diventare un uomo, ovvero Pushka, che ha deciso di diventare Pushk, una donna che io ho intervistato nel 2005 e che aveva 66 anni, ovvero ha vissuto più tempo in un corpo sociale maschile che non quello dato dalla sua natura di donna. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo, su radio24.it trovate il blog di questo programma, poi su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna il 17 gennaio, lunedì alle 6:30.